La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscarino vi saluta, sono le 16:37 primi, 22 secondi. Vabbè, mi risparmio il commento. Detto tutto questo, appuntamento, ve lo ripeterò fino ovviamente a venerdì, poi basta, ma sabato per l'esordio la nuova trasmissione di Radio 24 in diretta dalle 10 alle 12 con Carlo Alberto Carnevale Maffei, sottoscritto I Conti della Belva, 2 ore divertenti, vi dirò solo che sono divertenti. Poi chi vuole venire ad ascoltarci troverà sul sito, di cui vi do gli estremi domani, dal giorno prima dettagliato di che cosa ci occupiamo per decidere come intervenire e dire la vostra. Un programma ironico, non sarà una cosa pesante, però è ancora più difficile ovviamente parlare di cose serie con ironia, perché invece andiamo all'argomento del giorno. L'ironia, quando si tratta di conti, bisogna misurarla. Tra l'altro, scusate solo se dico per inciso, quello che è avvenuto a Roma stamattina con gli scontri con gli operai dell'acciaieria di Terni, la AST di Terni a Piazza Indipendenza, secondo me è un esempio di quello che non, sottolineo, non deve avvenire. Visto che siamo in un paese con centinaia e centinaia di crisi aziendali e che oltretutto la vicenda della Terni è paradossale, perché è anche figlia di una follia europea, bisogna usare il termine giusto, visto che l'hanno levata al gruppo finlandese che l'aveva per dare ai tedeschi che non la vogliono, e la vicenda finisce male perché i tedeschi disse non la volevano. L'ultima cosa che è opportuno che avvenga è che di fronte a operai che manifestano esasperati, la polizia faccia cariche preventive. Io non voglio schierarmi a favore o contro chi aveva il comando del dispositivo di piazza, perché le notizie dicono che gli operai volevano andare verso la stazione, Piazza Indipendenza lì vicino a Roma, per bloccare i treni. Ovvio che io sono un legalitario, dico solo che le cariche preventive, alzare i manganelli, in questa fase della storia italiana proprio non ci servono, nel senso che bisogna avere una freddezza assoluta e che gli ufficiali di polizia e carabinieri dei dispositivi delle forze dell'ordine capiscano che in queste circostanze, con i segretari oltretutto dei metalmeccanici, Landini ovviamente, ma anche quelli della FIMCISL e della UIL in piazza, bisogna dialogare, parlare, bisogna essere freddi come degli iceberg, perché i manganelli non servono, esasperano, e la storia italiana più volte ha dimostrato che cosa poi accade. Chiusa parentesi, perché oggi ci occupiamo, sia pure sotto altra veste, di una forza di polizia e di sicurezza italiana, e ce ne occupiamo però sotto un altro capitolo, quello, io sono nostalgico di Cottarelli, dei conti comparati, cioè di come spendiamo i soldi, perché noi abbiamo 5 forze di polizia nel nostro paese, siamo un'anomalia in tutti i paesi avanzati, e Cottarelli fin da oramai 9 mesi fa aveva scritto una bella propostina su come mettere insieme, accorpare, fondere, razionalizzare, non sciogliere queste 5 diverse forze di sicurezza e di polizia, però accorparle per ottenere 2 effetti. Primo, risparmiare, perché abbiamo i conti comparati anche per ciascuna forza dell'ordine. Io vi ricordo, per esempio, ci sono le tabelle, se andate a vedere sul sito revisione della spesa del Ministero del Tesoro, troverete che i costi di gestione, per esempio, di un commissariato di polizia in Calabria sono del 60% superiori alla Lombardia, non perché lì si combatte la 'ndrangheta, perché questo sarebbe giusto, sto dicendo a parità di unità assegnate il costo è del 60% superiore. Detto tutto questo, oggi ci occupiamo di uno di questi corpi, il Corpo Forestale dello Stato, che ovviamente è nel cuore di tantissimi, perché si occupa di funzioni fondamentali, la vigilanza ambientale, la lotta alle frodi, la sorveglianza sul patrimonio zootecnico, i parchi nazionali, ovviamente i presidi territoriali per segnalare i principi di incendio, tutte funzioni fondamentali. Ma la domanda è: perché tenere un corpo separato che ha un comando generale, un ispettorato di 700 agenti, 20 comandi regionali, naturalmente ovviamente per ogni provincia un comando provinciale con annesse sale operative, e non unificare le sale operative con quelle della polizia, naturalmente valorizzando poi chi all'interno del corpo ha 8.000 dipendenti, 8.000 assegnati, scusate se ho usato la parola dipendenti, che svolgono funzioni specifiche e che la polizia non svolge. Ma è anche vero che avere un proprio servizio navale, un proprio servizio aereo, proprie sale operative, tutto questo è sovrapposizione. Stiamo parlando comunque di 500 milioni di euro l'anno, non stiamo parlando di pizza e fichi. Ecco, allora c'è oggi un articolo sulla Stampa di Torino di un collega egregio, Francesco Grignetti, per chi volesse approfondire, a pagina 7, che dà in dettaglio un po' degli elementi su cui riflettere per accorpare il corpo forestale alla polizia. Ovviamente ci sono coloro che sono di opinione contraria, sono di opinione contraria. Per esempio il comandante del corpo, Cesare Patrone, dice: ma insomma, no, noi incorporiamo piuttosto nella forestale attuale tutte le polizie provinciali che sono rimaste oggi un po' appese ai corpi regionali delle regioni in cui esistono. Sono 6 regioni che hanno i corpi regionali oltre al corpo forestale dello Stato, stiamo ovviamente parlando quelle che hanno statuto speciale, e sono 6 perché ovviamente Trento e Bolzano sono province autonome come se fossero regioni autonome. Allora ovviamente bisogna vedere poi il Parlamento che forza e che voglia avrà di occuparsene. Io dico solo che il comandante del corpo per primo, che naturalmente io rispetto, sta lì da 10 anni, guadagna 320.000 euro, ma per quello che mi riguarda vi dico proprio ma. Però per sentire dal di dentro, oltre per chiedere a voi a casa cosa ne pensate, abbiamo chiesto a un rappresentante di uno dei sindacati autonomi della Polizia Ambientale Forestale di essere qui e darci l'opinione dal di dentro, se sia giusto o sbagliato accorpare, risparmiare, ma anche valorizzare, non sto parlando di scioglimento, oppure se sia totalmente infondato, sia una mania rigorista di noi pazzi che vogliamo tagliare la spesa, se al contrario invece bisogna procedere in una direzione opposta. Quindi è con noi il segretario generale del SAPAF, sindacato autonomo di Polizia Ambientale Forestale, che si chiama Marco Moroni, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, che pensa Moroni di della proposta di accorpamento? È giusto o è sbagliata? Ma guardi, mi faccio dire una cosa, perché tutta la sua prefazione credo di poterla sottoscrivere assolutamente, perché prima di parlare dei personalismi, no, e delle piccole cose, bisogna rendersi conto che viviamo un momento particolare nel nostro paese, e non solo nel nostro paese. Evidentemente quello che potevamo permetterci negli anni passati non è più plausibile, ammesso nel concesso che ce lo potevamo permettere all'epoca. Bravo. E quindi da questo punto di vista una razionalizzazione anche nell'ambito della sicurezza è sicuramente auspicabile. Io faccio parte di quel movimento di sindacati che propongono da tempo ai vari governi di mettere mano a questa situazione. Ecco perché non ci troviamo spiazzati oggi quando il governo Renzi, con coraggio sotto certi punti di vista, pone la questione in un ambito anche parlamentare e comunque diciamo nell'agenda politica, perché evidentemente ci sono molte cose che vanno riviste. Mi permetto però di dire, ecco, che probabilmente una riflessione che andrebbe fatta in maniera razionale dovrebbe essere quella su che tipo di sicurezza noi dobbiamo avere, sì, come Italia, no? Perché io mi domando spesso faccio un esempio. Quando io ho detto prima che il corpo forestale si occupa anche del patrimonio zootecnico, alcuni ascoltatori hanno mandato un sms dicendo: ma non delle stupidaggini, se ne occupano i veterinari. Guardate che ben 1000 su 8.000 del corpo forestale sono addetti proprio al controllo delle biodiversità, tra cui appunto la selezione e il rispetto dei disciplinari delle diverse razze zootecniche. Questo probabilmente neanche lo sanno gli italiani, scusi se mi permetto di dire, ecco, a proposito di sicurezza, perché poi quello che si mangia dipende anche da come vengono rispettati dei principi fondamentali, su come si trattano gli animali, si selezionano, eccetera, eccetera, eccetera. Mi scusi se l'ho interrotta. Anzi, no, ne approfitto perché torniamo tra. No, ma perché è una cosa un po' singolare che nessuno poi lo sappia. Detto questo, tra 60 secondi torno con lei, intanto strada. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a occuparci nell'ambito di una riflessione sulle forze di sicurezza dell'ordine nel nostro paese, molte, troppe, perché io trovo che avere il servizio navale della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della guardia costiera e delle capitanerie di porto, per dirne una, sia molto insensato. nel senso che secondo me sia i servizi navali che sia i servizi aerei e sia le centrali operative diversificate sono, a mia opinione, una cosa che si radica nella storia per avere più corpi dello Stato e non fidarsi di ciascuno di loro anche a fini democratici. Nella storia italiana c'è questa componente, tra carabinieri, polizia e così via, la scelta di demilitarizzare la polizia lasciando gli altri militari e così via. Detto questo, mi sembra che sia una storia passata. Oggi è il momento di fare un ragionamento, come ci diceva Marco Moroni, segretario generale del SAPAF, sindacato autonomo della Forestale, che parte proprio da una domanda: che tipo di sicurezza vogliamo e lei che tipo di sicurezza vorrebbe? Sì, dico appunto che la sicurezza, da questo punto di vista, che noi italiani dovremmo volere e dovremmo permetterci, ovviamente dovrebbe anche farsi delle domande rispetto, non so, ad esempio alla sicurezza degli stati. Cioè, se noi organizziamo una festa privata, comunque con degli amici, non è che chiamo la polizia di Stato, i carabinieri o il corpo forestale dello Stato per garantire la sicurezza, se ne occupa in proprio, ovviamente, no? Quindi evidentemente, ecco, anche su questi aspetti sto un po', come dire, estremizzando, ma per far no, no, non sta estremizzando, poi... perché questo per esempio è un elemento per il quale tra i paesi europei e OCSE noi siamo un paese ad altissima proporzione di appartenenti alle forze dell'ordine in proporzione alla popolazione, e deriva anche dal fatto che gli attribuiamo funzioni che altrove infatti non sono attribuite alle forze dell'ordine. Esatto. E le aggiungo di più, visto che faccio il sindacalista, che purtroppo laddove nei paesi come l'Italia ci sono molte forze di polizia, gli stipendi sono più bassi di quelli dove ce ne sono poche di forze di polizia, quindi evidentemente avere più forze di polizia non aumenta la contrattualità, la capacità contrattuale. No, diciamo che storicamente forse alla politica aver fatto assumere più gente erano più voti rispetto a quanto vi pagassero, però questa è la mia opinione. Comunque, detto ciò, sì, effettivamente, quindi dobbiamo riflettere su questo. Nel nostro ambito, che è quello appunto della polizia ambientale, ci studiamo molte volte le operazioni che vengono fatte dai vari nuclei dei carabinieri, della guardia di finanza, non perché siano assolutamente notevoli operazioni, ci mancherebbe altro, ma che senso ha se c'è una polizia ambientale che bella altre domanda. Amministrazioni debbano farsi il proprio nucleo, no? Questo nasce un po', a mio modo di vedere, dalle mancate come dire, però è lei come se mi stesse dicendo che un accorpamento che abbia una visione razionale in cui si prendono le specializzazioni delle diverse forze dell'ordine e le si mette insieme, però tutelandole e magari anche potenziandole, ma razionalizzandole invece che farsi la gara di concorrenza e sovrapposizione, voi sareste a favore. È quello, assolutamente sì, è quello che diceva lei prima. L'esempio delle centrali operative è lampante, no? In ogni provincia, in ogni regione ci sono almeno 7 centrali operative di polizia. Per funzionare una centrale operativa H24 ha bisogno di almeno 20 persone. Cioè, parliamo di 240 persone che sono lì. Se ne facciamo una unica di 40 persone, non di 20, di 40, potenziata, abbiamo recuperato sul territorio 180 persone. Ed evitiamo sovrapposizioni e follie, ritardi nelle comunicazioni. Beh, sì. Cioè, secondo me innalziamo i livelli di sicurezza complessivi per il cittadino, per i privati, per il pubblico, per l'ordine pubblico. Questa è la mia banale opinione. Però la politica, secondo me, su questo non... lei ha l'impressione che avverrà? Ma guarda, io ho avuto modo di dialogare con il presidente Renzi nell'incontro che ci ha concesso recentemente come forze di polizia per lo sblocco del tetto retributivo, sì. E si è parlato, ovviamente, essendo io interessato al corpo forestale, anche di questo argomento. Lui ci ha rassicurato sulla disponibilità al dialogo, ma mi è sembrato alquanto fermo sul procedere. Quindi lei dice il Presidente del Consiglio personalmente, come rappresentante sindacale delle forze di sicurezza, e mi hanno dato uno sblocco che al resto della pubblica amministrazione non c'è nelle retribuzioni, ha detto io procedo. Quindi io questa infatti secondo me è una cosa positiva se avviene. Vediamo, la politica in passato secondo me si è comportata un po' singolare. Io richiamo ancora la politica prego. Nel senso che poi però, ecco, non vorrei che dovesse lasciare semplicemente il concetto del corpo forestale dello Stato, beh, allora... No, lei dice deve essere complessiva, certo, non deve essere solo per i più deboli, tra virgolette. Certo, globale, su tutto quello del sistema di sicurezza. Nel corpo forestale dello Stato ci sono molte cose, lei citava oggi l'articolo di Grignetti, ma c'è anche l'articolo del lunedì, della Repubblica, ce ne sono diversi, cioè effettivamente oggi come oggi ci rendiamo conto che ci sono molti sprechi. Nel Corpo Forestale dello Stato c'è una parte di personale che è impiegato in questioni tecniche e gestionali, che assolutamente è sottratta a quelle che sono poi mansioni invece di polizia vere e proprie. C'è una parte di personale che spegne gli incendi, forse non interesserà magari i suoi ascoltatori, che gli incendi boschivi li devono spegnere per legge, non perché lo dice Marco Moroni, le regioni, che si devono attrezzare con i propri servizi forestali. E questo ce ne siamo occupati più volte, perché ce ne sono alcune che sono, per così dire, come i 24.000 in Sicilia, che non si... direi che non, oggi non parliamo di quelli. Ma forestali, guardi, le do un dato, quest'estate noi abbiamo fatto 3.000, almeno 3.000 interventi per spegnere incendi boschivi. 6.000 interventi significa 6.000 unità. Se quelle 6.000 unità fossero state indirizzate a fare le indagini che vanno fatte nel reato di incendio boschivo nell'immediato, perché altrimenti non trovi nulla e non riesci più a fare quello, il lavoro che devi fare. Forse era più efficace. Forse avremmo catturato qualche. Allora, sentiamo rapidamente come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Pasquale da Taranto. Pasquale, prego. Salve, buonasera. Buonasera. Senta, io sono un appartenente alle forze dell'ordine. Sì. Volevo dire soltanto due cose, perché vivendo ormai da anni, diciamo che ho parecchi anni di servizio, certo, perciò ne ho viste tante, ho girato parecchie sedi in Italia, e in pratica volevo confermare proprio questo, che l'assurdità di avere 7, non 5, ma ben 7 forze di polizia, con uno spreco di denaro pubblico è incredibile, dove tutti quanti fanno quasi le stesse cose e peraltro vengono fatte anche male, perché non esistono delle vere specializzazioni. Uno spreco di denaro incredibile, io le racconto soltanto dove attualmente faccio servizio, che è un paese, diciamo, di 35.000 abitanti, dove c'è una caserma dei carabinieri che è immensa, peraltro anche con degli appartamenti riservati ai comandanti, a tutti quanti, dove ci sono 11 carabinieri all'interno, e poi c'è un commissariato di polizia con 35 persone, con tutte le attività che svolge, la polizia amministrativa, l'anticrimine e tutto quanto, con una volante che fa H24 e chiaramente si cerca di coprire l'intero arco della giornata. Con una sede fatiscente in affitto, dove lo Stato paga 4-5 mila euro al mese. Vabbè, mi pare che ci ha dato già abbastanza elementi, moltiplichiamoli per tutto il territorio nazionale. Vi ricordo solo che, per esempio, per solo pagare i carabinieri mettono 300, quindi 300 dei loro nell'ufficio amministrativo centrale, solo dell'ufficio paga. Pensate che tutto questo significa risorse, personale, tenerle separate e sovrapposte è una scemenza. Vedremo la politica che cosa ci riserva da questo punto di vista. In passato la politica si è comportata male, per esempio di volta in volta per la finanza i carabinieri, la decisione di mettere alla testa del corpo un appartenente al corpo e non militare era fatto per ringraziarselo, avvenne con la sinistra per i carabinieri e con la destra con Tremonti per la finanza. Speriamo che questa volta cambi l'aria. Grazie a Marco Moroni, continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.